effetto. Qua cerco di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! Eccoci qua. Ciao a tutti e a tutte, un salutone a tutti i nostri amici e amiche, ascoltatori e ascoltatrici. Se siete capitati per caso, questa è Radio Wombat, alle frequenze in onde medie dell'1359 e questa trasmissione è La Stampa Rassegnata. Per chi non ci conosce, La Stampa Rassegnata è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat che si occupa, diciamo, per lo più delle vertenze nella piana fiorentina, quindi contro l'inceneritore, la costruzione ovviamente dell'inceneritore di Firenze, più precisamente Case Passerini, e l'ampia questione della cementificazione e nuova edificazione nella piana fiorentina legata e connessa al nuovo e al progetto di nuovo aeroporto. Non sono le uniche tematiche che affrontiamo, ma tentando di tenere un occhio sulla piana e un occhio su Firenze, ci rivolgiamo e poniamo, diciamo, gli occhi e la nostra attenzione su tutto quello che ci sembra meritevole di commento e di interesse. Questa settimana, diciamo un po' a differenza di quello che facciamo sempre, anche se, come ho detto più volte negli ultimi mesi, stiamo cercando di aprire la nostra trasmissione sempre di più agli interventi e alle voci del territorio, in un tentativo che credo, insomma, apprezzato dai nostri ascoltatori, piuttosto che le mie, o meglio, integrando con queste impressioni anche le mie chiacchiere, che d'altronde sono una caratteristica di ogni trasmissione radiofonica, non se ne può proprio fare a meno, però insomma smussando gli aspetti, diciamo, più solipsistici, se così vogliamo dire, di quello che è un lavoro redazionale condotto in solitaria dai nostri microfoni diffusi. E niente, proprio per confermare quello che sto orora dicendo, gli argomenti di questa settimana saranno tre e saranno affidati quasi totalmente a, diciamo, degli ospiti. Ospiti, ripeto, dei nostri studi diffusi, da non intendersi come ospiti che sono qui a fianco a me nella trasmissione, ma sono certamente parte del lavoro settimanale e insomma sono stati ospitati come voci e come interventi. Si tratterà di un intervento affidato ad Antonio per raccontarci e spiegarci la camminata del 22 di giugno organizzata dai comitati No Aeroporto. Si tratterà di un intervento da parte di Sara per raccontare e spiegare e dare un aggiornamento su quello che è il rientro della salma del partigiano del XXI secolo fiorentino Lorenzo Orsetti, per chi lo conosceva Orso, passato così insomma alla memoria e anche come nome di battaglia. E poi l'ultimo intervento, non una di meno, che lancia un appuntamento per questa settimana da un altro appuntamento di mobilitazione, essendo una situazione particolarmente vivace e frizzantina, e questo ci fa anche molto piacere, insomma. Quindi, ringraziando anticipatamente tutti coloro che hanno contribuito alla trasmissione di questa settimana e in generale alla vita di questa radio, pur magari non trovandosi nella redazione, cominciamo a entrare nel vivo delle notizie. E allora, aeroporto e ancora aeroporto. Ne abbiamo parlato molto, come chi ci ascolta lo sa, dai nostri microfoni non è mai mancato un aggiornamento costante e continuo su questa enorme vicenda che piega a sé il territorio metropolitano fiorentino, ma ne abbiamo parlato quando nessuno ne parla e ovviamente ne dobbiamo parlare anche in momenti in cui tutti ne parlano, perché, come avete già sentito nelle puntate precedenti, la vicenda della recente sentenza al TAR ha cambiato nuovamente le carte in tavola e reso più difficile, o comunque in qualche modo più complicato, sbrogliare la matassa amministrativa per i proponenti il progetto. È vero, ovviamente, dall'altra parte, che chi si oppone sa perfettamente quanto il complesso di interessi che sta dietro al progetto aeroportuale non si piegherà e non mollerà ovviamente l'osso. Proprio per questo una nuova iniziativa lanciata dai movimenti, dai comitati della Piana contro la costruzione del nuovo aeroporto per sabato 22 di giugno, scusate. E diciamo, piuttosto che raccontarla io, credo sia interessante e curioso per i nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici sentire dalla viva voce di uno dei protagonisti di questi anni di lotta contro l'aeroporto e più in generale nelle vertenze ambientali della Piana Fiorentina quello che andrà a succedere per l'appunto sabato 22 alla camminata che si svolgerà a Signa. A te la parola, Antonio. Ciao a tutti, sono Antonio, come diceva la presentazione del MoMA, e faccio parte dell'Assemblea della Piana contro le nocività e da alcuni anni sono impegnato nella battaglia contro l'aeroporto, prima contro gli inceneritori di case Passerini. Sabato 22 giugno abbiamo organizzato di effettuare una camminata nei terreni che Toscana Aeroporto vorrebbe prendere, dove vorrebbe spostare il lago di Peretola. Andiamo un attimo per ordine. E com'è avvenuta questa storia? A San Mauro di Signa, sulla riva destra del Bisenzio, in una zona agricola interessante ed anche bella, alcuni anni fa avevano progettato di fare una cassa di espansione. Le casse di espansione sono un tappabuchi, una emergenza legate a fiumi o torrenti per impedirne la rottura dei raggini o la tracimazione. Una cassa di espansione mediamente non supera i 6-7 ettari ed è già grande, è un'area adibita libera, lasciata libera, adibita in casi di necessità, estrema necessità, non prevedibile, perché le piene dei fiumi o dei torrenti non sono né previste né controllabili. Può venire un temporale estivo che dura invece di 3 ore un giorno, e di questi tempi, visto il disastro idrogeologico, i fiumi che sono ridotti a canali molto piccoli, e sugli argini che ci viene costruito di tutto e di più, il letto dei fiumi, dei torrenti che è sempre più ristretto, per tutta una serie di questioni, lo abbiamo visto, che lo vediamo quotidianamente, che basta che piova qualche giorno e c'è qualche alluvione un po' qua, un po' là, un po' in tutto la penisola italiana. Era prevista questa cassa di espansione da diversi anni in funzione appunto del Bisenzio. La cassa di espansione è una, come dicevo prima, a servizio di un fiume, fa da troppo pieno, è un'area sbassata dal piano di campagna 2-3 metri, non di più, e con delle arginature che vanno anche lì 2-3 metri, ma non di più rispetto al piano di campagna, quindi visivamente non rappresentano un cazzotto in un occhio, non sono né brutte né belle, devono essere tenute pulite sia le arginature sia l'interno, quindi non ci sarà nessuna coltivazione, non ci sarà alberature, sugli argini magari sì, non all'interno, e l'erba dovrà sempre tagliata, non dovranno impedire la produzione, la creazione di ramaglia, di qualsiasi cosa che può creare impedimento all'afflusso dell'acqua in caso di necessità. A diversità di un lago, la cassa di espansione deve essere vuota, perché per necessità fa da troppo pieno. Se il Bisenzio, si sta parlando del Bisenzio, arriva una piena improvvisa, aprono le chiuse del canale di conduttura, porta una certa quantità di acqua nella cassa di espansione che deve essere libera. Se c'è già i 4-5 metri fra il letto e l'alto dell'argine già acqua, è evidente che non trascima più il Bisenzio, trascima direttamente la cassa di espansione. Quindi è una cosa ben diversa da un laghetto o un lago, come vorrebbero persone che magari sono più vicine all'aeroporto che a noi. Cosa è successo? Toscana Aeroporti, puntando su questa cosa, ha detto va bene, lì ci deve comunque essere una cassa di espansione, l'asse di espansione è simile a un lago, noi ci facciamo un lago. Ora, la differenza è sostanziale: intanto l'asse di espansione non è un lago. Un lago l'acqua deve essere presente e deve essere anche avere anche un ricambio, perché se in un lago di pochi metri l'acqua è ristagnante, la gente non è più bello vivere sulle sponde del lago, come può essere sul Trasimeno che è bello, come può essere sul lago di Garda che è bello, ma sei sulle sponde di un acquitrinio, crea zanzare, crea veramente disagio alla popolazione. Quindi un ricambio dell'acqua continuo, questo in un lago artificiale di pochi metri, soprattutto in una zona di pianura, è difficilmente fattibile. Ma quello che ci ha portato a essere contrari, e non solo noi, e spiegherò anche il perché, è che la necessità di Toscana Aeroporti è che nella via valutazione di impatto ambientale, che tra l'altro è stata bocciata adesso dal TAR, per cui sono fermi e lo saranno per molto tempo, fra le tante prescrizioni c'era anche lo spostamento, ripeto, spostamento del lago di Peretola. Ora, che un lago si sposti succede solo veramente in processi di speculazione. Un lago naturale, perché il lago di Peretola è naturale, è uno dei residui dell'antico lago della Piana, perché nei tempi geologici era un lago fino alla rottura della gonfolina che ha fatto defluire le acque e poi è rimasto acquitrinio, un padule fino a tempi recenti, a pochi secoli fa. Già Leonardo da Vinci, ci dice la storia, faceva opere di regimentazione, opere pagato ovviamente, di regolamentazione di questo padule. Spostare un lago, ma è una cosa improponibile. Cioè, nel lago di Peretola ci sono i fenicotteri, non lo so, metteranno dei cartelli per indicargli dove è il nuovo lago? Ma scherziamo davvero? A me mi viene da ridere, ma c'è da piangere. Comunque, Toscana Aeroporti ha preso al balzo questo progetto di cassa d'espansione, ripeto, non maggiore di 6-7 ettari, e tutta l'area vocata a agricoltura, e sabato chi viene vedrà la bellezza di questi campi a grano, di questi campi a mais. Certo, tra parentesi, si usa pesticidi, si usa tutto, ma questo è un altro discorso. Qui si entra nel discorso dell'agricoltura e ora in questo momento non ci riguarda. Ci riguarda il problema del lago. Noi giovedì il 13 abbiamo, proprio in preparazione di questa camminata del 22, organizzato un'assemblea a San Mauro a Signa. Ci sono stati diversi interventi di cittadini, di persone che abitano nella zona e hanno ribadito una cosa ben precisa. Assigna un altro lago, non lo vogliamo, non ne abbiamo necessità, non c'è il bisogno, va bene la cassa di espansione, tutti approvano il progetto dell'asse espansione, ma un lago non è necessario, non ci interessa, ci crea disagio, ci crea problematiche e un nuovo lago non lo facciamo. Ci sono stati interventi di un paio di persone che vivono dall'altra parte del Bisenzio, o meglio nella zona dei Renai, e hanno veramente messo in evidenza le problematiche, le difficoltà che oggi questi laghi rappresentano. Oltretutto lì, vabbè, sono laghi nati col tempo per il prelievo di rena, quindi non si parla di un lago di 2 o 3 metri, ma molto più profondi, un lago che ha intercettato la falda acquifera e quindi ha mischiato le acque del lago con la falda acquifera, quindi la falda acquifera sotto, che è un fiume che si muove sotterraneo e porta l'acqua un po' a giro, viene inquinata dall'acqua di superficie del lago, che comunque, essendo un'acqua ristagnante e in una zona molto entropizzata, non può essere un'acqua pulita, un'acqua sana. I cittadini l'hanno detto chiaramente, un lago lì non ci deve essere, un lago non ci può stare. Oltretutto è una zona dove ci dovrebbe passare la famosa bretellina che dal nuovo ponte che sull'Arno dovrebbe liberare tutto il centro di Lastra e di Lastra Segna dalle macchine, dal traffico esagerato che c'è in questo momento. Il gioco forza di Toscana Aeroporti qual è stato? Noi facciamo il lago e in compenso vi finanziamo sia la pretellina, ma lì non ci potrà più passare perché c'è il lago che occupa tutta l'area, e vi finanziamo anche il ponte. È ovvio che il comune non ha detto altro che sì, si è messo in ginocchio, ha abbassato la testa, ha leccato i piedini e ha firmato tutto quello che doveva firmare, diversamente il comportamento dei cittadini. Detto questo, abbiamo organizzato per sabato una camminata proprio per vedere, per conoscere i terreni che vogliono espropriare, i terreni dove si vuole spostare, ripeto, spostare il lago di Peretola, perché non è un lago nuovo che si fa perché è bellino, perché è interessante o chissà per quale altro motivo. No, si fa il lago a San Mauro a Segna per spostare quello di Peretola, che impedisce alle migliaia di metri cubi, di metri quadrati di cemento che saranno la nuova pista di poter essere messi. Quindi è una cosa improponibile. Noi la camminata partirà dal centro di San Mauro, quindi coinvolgeremo gli abitanti per quelli che già si oppongono, già vedono di brutto occhio questa ipotesi del lago, che non sono del tutto stupidi e sanno che non sarà mai un lago, ma più si avvicina a un acquitrino, che l'acquitrino, la diversità del lago, è qualcosa di ristagnante, quindi zanzare e non solo zanzare. L'esperienza della malaria, delle maremme, io non la voglio ripetere, non la voglio stare qui perché sennò sembra, però ragazzi, cerchiamo anche di vedere il passato non tanto lontano, ma il passato molto vicino e recente. Comunque partiremo da Piazza della Chiesa, per informazione c'è un buon parcheggio per chi viene da fuori, quindi ci arriva facilmente in macchina e può parcheggiare. Percorreremo 2 o 3 strade all'interno del paese, per cui dopodiché ci sposteremo sempre con una piccola strada all'interno di questa area agricola bella, interessante, e per un chilometro e alcune centinaia di metri la percorreremo e francamente, avendola già andata a vedere dove si doveva andare, posso garantire che è veramente bella. Abbiamo a destra e a sinistra grano, arriveremo lungo un fosso notevolmente grande, abbastanza grande, lo percorreremo con una strada bianca e sempre di là dal fosso per un chilometro, forse anche più, e di qua dal fosso abbiamo tutta coltivazione di grano. Per cui sarà interessante anche, magari se vengono gli amici di Mondeggi che possono tenere una lezione sulla coltivazione del grano, quello che il grano ha rappresentato e tuttora rappresenta per la cultura occidentale, la diversità del riso, la cultura orientale è più legata al riso, ma noi siamo legati al grano. Percorreremo questa strada bianca e possiamo notare veramente tutti i 70-80 ettari di terreni che verrebbero espropriati e dove dovrebbe nascere questo lago, che sicuramente non verrà mai fatto. Questo lo dico con orgoglio, perché sicuramente la popolazione di San Mauro è disposta a una battaglia fino a, all'ultimo respiro, pur di evitare questa distruzione di una zona ancora verde, di una zona vocata all'agricoltura, purtroppo agricoltura industriale, ma sempre agricoltura è. Magari rivalutiamo l'agricoltura, ma è un altro discorso, vi dicevo prima. Dopodiché facciamo ancora un pezzo di strada bianca e qui avremo un cambio di coltivazione e vedremo una distesa di mais, purtroppo anche questo a livello industriale, però è sempre una qualcosa di anche visivamente bello da vedere, bello rispetto a un acquitrinio puzzolente, fatiscente. Sicuramente percorrere queste strade con il grano prima e il mais oggi è veramente interessante e bello anche dal punto di vista fotografico. Chi è amante di fotografie, sabato può veramente portarsi la macchina e credo che con le loro capacità potranno tornarsene a casa con delle belle foto. Rientreremo poi su una strada che è quella di collegamento tra Segni e Lastra, quindi staremo attenti perché la nostra è una camminata, non è un corteo, non è una manifestazione in senso lato del termine, e ritorneremo alla piazza della chiesa. Quindi facciamo un giro circolare, partiamo e ritorniamo nella stessa zona. È una camminata di conoscenza per vedere veramente le bellezze che ci sono ambientali anche negli ultimi elementi di bellezza ambientale rimasti nella piana disastrata nostra, che vorrebbero invece distruggere anche questo. Quindi invito a una presenza di massa. Gli amanti dell'ambiente possono vedere qualcosa di bello, i fotografi, ripeto, possono fare delle belle fotografie, gli amici di Mondeggi sono sicuro che ci intratterranno con una bella lezione sulla cultura del grano e poi anche, se vogliono, del mais. Quindi ci sono interessi spunti sia a livello paesaggistico, sia a livello culturale, sia a livello storico. Per cui invito tutti il 22 giugno alla camminata nei terreni che Toscana Aeroporti, non per interessi particolari verso la popolazione, ma per interessi propri, perché ha necessità di spostare un lago, ripeto, spostare un lago, ha individuato questa zona bella, interessante, e ci vorrebbe fare questo che, come giustamente dicono i residenti della zona, sarà un acquitrino, non è un lago naturale, perché è artificiale, non ha ricambi, non ha niente, quindi diventerà un acquitrino con tutti i difetti, limiti che ha, e tutto questo. Invito tutti a essere presenti sabato 22 giugno, appuntamento alle 17.30, quindi la camminata viene fatta in un orario non proprio di Sol Leone, non sotto sole cocente del pomeriggio, delle prime ore del pomeriggio, quindi siamo anche sul calare, diciamo, della sera, con i colori un pochino più nitidi, più belli, e quindi anche, diciamo, l'aspetto paesaggistico ne ha dei vantaggi. Ciao a tutti, a sabato 22 giugno. E allora, grazie Antonio per questo ricco, completo e interessante intervento rispetto alla iniziativa che il Movimento No Aeroporto e Contro le Nocività nella Piana va a mettere in campo, ripetiamolo, sabato 22 di giugno. L'appuntamento per la partenza di questa camminata è stato abbondantemente detto, ma lo ripetiamo per fissare bene il messaggio: alle 17.30 alla Piazza della Chiesa, perché così è nota. In realtà, se lo cercate su Google Map o lo chiedete, è Piazza Aldo Moro a San Maurassigna, ripeto, le 17.30, abbigliamento non particolarmente sportivo, ma insomma la camminata non è troppo impegnativa, sono alcuni chilometri, il sole dovrebbe dare un po' di tregua, ma insomma ci sarà magari non da sporcarsi, ma magari ci sarà qualche forasacco o un po' di sole, per cui abbigliamento leggero, cappellino, bandana o paglietta, e bandiere, striscioni e tanto entusiasmo e voglia di difendere il nostro territorio e le popolazioni che lo abitano. Niente, detto questo, facciamo una prima pausa musicale con una canzone che ci porta poi al prossimo argomento di questa settimana. Sono le simpatiche e anche brave, direi, lo possiamo dire senza vergogna, Soda Sisters, che già ormai un paio di anni fa hanno musicato una canzone del poeta curdo Şerko Bekas per un concorso che era una canzone per il Rojava, insomma ovviamente un concorso autogestito e auto-organizzato, e la sentiamo. Il Kurdistan. Ed eccoci rientrati in voce e tra gli argomenti di questa settimana non possiamo ignorare il rientro della salma di Lorenzo Orsetti. Orso per gli amici, per i compagni, per tutti coloro che lo avevano conosciuto a Firenze, dentro e ai margini, ai bordi, diciamo, del movimento fiorentino, prima della scelta fondamentale che certamente gli ha cambiato la vita, quella di andare in Siria del Nord per incorporarsi alla guerriglia, alle unità di difesa del popolo con i compagni e le compagne curde. Sappiamo che Orso è morto in combattimento, sappiamo che è stato salutato da una cerimonia dai compagni di lotta e che la salma è partita per rientrare in Italia. Tanto per cambiare, e questo ci dimostra una volta di più che la morte poi in qualche modo è anche una prosecuzione delle scelte fatte in vita, è stato oggetto anche la salma di un autoritarismo di Stato abbastanza fastidioso e direi insopportabile. Abbiamo visto il presidio dei compagni romani che speravano di poter riabbracciare il feretro e che invece gli è stato sottratto per ragioni burocratiche e con il pretesto, insomma, delle autopsie. Ma finalmente il corpo rientrerà in Italia e rientrerà anche nella sua Firenze. E quindi niente, sappiamo che è già stata organizzata una 2 giorni, diciamo, di saluto e di cerimonia e chiediamo a Sara cosa succederà questo fine settimana, come è stato organizzato e ovviamente il suo intervento libero può diventare anche l'occasione per fare un punto della situazione su quella che è la lotta in Kurdistan, in Siria, su quello che è lo scacchiere medio orientale nel quale questi avvenimenti hanno continuano ad avere luogo e parlare, insomma, di quello che è stato il contesto nel quale Orso è morto. Sara, a te la parola, grazie. Ciao a tutte e tutti, e sì, come veniva già detto, il 23 e il 24 si terranno a Firenze i funerali di Lorenzo Orsetti, Orso, e in particolare il 23 sarà una giornata dalle 10 alle 8 di sera al circolo SMS di Rifredi, il suo quartiere, in cui sarà prevista appunto la veglia e alle 17.30 una cerimonia di saluto con la famiglia e la comunità curda, e il 24 invece alle 10.30 di mattina sarà previsto un momento di commemorazione nel piazzale di San Miniato al Monte, e alle 12 la tumulazione che avverrà in forma privata nel cimitero delle Porte Sante. Detto questo, io penso che la cosa migliore e più forte che possiamo fare tutte noi e tutti noi per onorare e commemorare la memoria di Orso è proprio quello di portare onore a un rivoluzionario, a un partigiano di Firenze, della Firenze di oggi, che ha scelto di mettere la sua idea di libertà e di giustizia al di sopra di tutto, al di sopra di ogni altro interesse, tanto da andare dall'altra parte del mondo praticamente a combattere con ragazzi e ragazze, uomini e donne che come lui ci credevano, ci credono a quell'ideale di giustizia, di libertà, di uguaglianza. E per questo, proprio per questo, i funerali di Orso non credo che dovremmo vederli come un momento di dolore, un momento di lutto, ma soprattutto come un momento di lotta, un momento in cui appunto ripeterci e ripetere con fermezza che la sua lotta non la faremo finire così, noi continueremo con tutti i nostri mezzi, con tutte le nostre forze a cercare di, come posso dire, essere all'altezza del suo esempio. E come dicevi te, è vero, quando il feretro è arrivato a Roma non è stato fatto uscire dall'uscita principale dell'aeroporto, dove c'era un nutrito presidio di compagne e la comunità curda romana ad attenderlo per un saluto, per un abbraccio, ma è stato scelto dalla questura di utilizzare una porta secondaria e di fatto blindare il rientro di Lorenzo in Italia, ad allontanare i giornalisti, non far avvicinare il presidio. E questo perché il martirio di Lorenzo ha avuto una potenza incredibile, è riuscito a rompere quel silenzio dell'informazione mainstream su ciò che avviene in Siria del Nord, su ciò che è il progetto della rivoluzione confederale in Siria del Nord e dell'Est, e a mostrare veramente e apertamente chi di fatto si stava mettendo in gioco per combattere l'ISIS, per combattere Daesh, mettendo a rischio in gioco la propria stessa vita, e chi invece faceva della lotta all'estremismo una mera bandiera per fini elettorali. E una cosa del genere non può che non aver allertato chi di fatto tutela e porta avanti principi di una società che non possono che essere in conflitto con quelli che sono i principi della rivoluzione democratica della Siria del Nord e dell'Est, tanto da far vedere figure come quella di Orso, ma anche figure come gli altri sei ragazzi e ragazze che sono tornati vivi dalla Siria del Nord, come figure potenzialmente pericolose, problematiche, tanto da volerle ritenere socialmente pericolose. E appunto, come dicevo, la vera potenza, l'incredibile potenza del martirio di Orso è stata proprio quella di rompere il silenzio e dimostrare apertamente cosa stava succedendo in Siria del Nord. Ma secondo me un'altra cosa estremamente importante e di valore è da chiedersi cosa ha portato un compagno di Firenze, un ragazzo anche molto giovane, a compiere una scelta del genere, perché sono convinta che non l'abbia compiuta con superficialità, cioè sono convinta che sapeva a cosa potenzialmente poteva andare incontro, e anche che era una scelta difficile. E io penso che Orso abbia fatto questa scelta perché era stufo del concetto di vita che abbiamo qua in Europa, di dover sottostare a lavoretti precari e ipersfruttanti, di essere un numerino, di dover dedicare tutto il suo tempo unicamente a rispettare certe norme, rientrare in certi standard, pena l'emarginazione. E penso che la sua scelta difficile in fondo sia stata quella di non limitarsi a parlare, ma di scegliere di far seguire alle parole i fatti, costi quel che costi. E questo l'ha portato anche a incarnare un valore come quello del legame fra rivoluzionari, del legame fra uomini e donne che ci credono che valga la pena di lottare e di rischiare per la libertà, per l'uguaglianza delle donne, per l'ecologia, perché tutti nella società abbiano diritto di prendere parola e di autodeterminarsi, tanto da accettare e sentire come necessario l'andare di fatto dall'altra parte del mondo, in un contesto totalmente diverso dal nostro, in una società totalmente diversa dalla nostra, ma comunque sentirla la sua. E penso che proprio per questo il martirio di Orso sia riuscito a rompere tutti quegli argini che di fatto vincolano anche la morte, Cioè, io penso che proprio per questo sia riuscito a non essere un martirio sentito solamente da chi di fatto l'aveva conosciuto in vita, l'aveva conosciuto a Firenze o gli amici, i familiari, ma a farlo sentire patrimonio di tutti quegli uomini e quelle donne che in questa lotta ci credono e che pensano che sia veramente possibile creare un'alternativa a quella che oggi è la realtà e la quotidianità in cui siamo tenuti a vivere. E ci tengo a specificare un'ultima cosa, e cioè che penso che soprattutto nell'Italia di oggi, nell'Italia in cui sembra che la Lega la faccia da padrona, in cui sembra che stia prendendo sempre più piede lo scaricare verso il basso la sofferenza sociale, in cui il razzismo, il sessismo sembrano diventare parole chiave, io penso che il messaggio di Orso esploda ancora più forte, ancora più capace di scardinare il discorso dominante, e proprio per questo faccia ancora più paura a chi appunto questi cambiamenti li teme e li rifugge con tutte le proprie forze, perché di fatto in un'Italia come questa dire così chiaramente che solo le lotte possono trasformare il reale, che i rapporti di forza si possono cambiare anche se sei il piccolo gruppo di protezione del popolo che va a scontrarsi contro guerriglieri e terroristi armati dai migliori eserciti, o che all'oggi va a scontrarsi con la Turchia che è il secondo esercito della NATO. Comunque ce la puoi fare, perché l'unico modo per riuscire a farcela è proprio questo: non tirarsi indietro e dare il tutto per tutto, è scegliere di lottare. E un'ultima cosa, ti lascio con un breve aggiornamento sull'oggi. E all'oggi appunto l'ISIS è stato sconfitto, ma proprio per quello che dicevo anche prima, questo non vuol dire che il confederalismo della Siria del nord e dell'est non rischi nuovi e continuativi attacchi, proprio perché il mondo per come lo conosciamo non può permettersi di lasciare sopravvivere serenamente una proposta sociale così reale e così rivoluzionaria, così sovversiva rispetto a quello che conosciamo, che vediamo, che viviamo. Per questo la Turchia sta continuamente portando avanti piccoli e grandi atti dal sabotaggio, come bruciare le coltivazioni dei territori, a veri e propri bombardamenti sporadici o più frequenti, ma comunque sempre costanti. E dobbiamo anche ricordare che la Siria del Nord continua a essere sotto embargo, quindi è anche una situazione in cui è sempre più difficile continuare a poter reperire tutta una serie di strumenti, di beni. Basti pensare che per esempio la sanità è incredibilmente in difficoltà, perché non si riesce ad avere le strumentazioni necessarie. Però penso anche che uno dei principali problemi e difficoltà che abbiano al momento sono proprio i miliziani di Daesh, gli ex miliziani di Daesh che sono stati catturati con la caduta dello Stato Islamico. E ci tengo a sottolineare che molti di loro non sono siriani, molti di loro sono europei, è stata fatta la richiesta da parte appunto della Confederazione di poter rimandare questi assassini, questi tagliagole, non saprei bene come definirli, nei paesi di provenienza, in modo che sia il paese di provenienza a poterli gestire e e anche a spingere un processo per crimini contro l'umanità, perché di fatto stiamo parlando di eccidi di massa. E la risposta all'oggi è totalmente inesistente, quindi ecco, io vi saluto tutti cogliendo quest'ultimo minuto per riportare tutti all'attenzione il fatto che forse una piccola cosa che potremmo fare per tenere alta la memoria la memoria di Orso è proprio questa, attivarci anche noi con i nostri mezzi, con le nostre forze, nei nostri territori, per far sì che gli stati a cui questi assassini che hanno scelto di unirsi a Daesh, all'ISIS, appartengono, se li riprendano in casa e si assumano ufficialmente la responsabilità del fatto che questi uomini e anche queste donne esistono, hanno compiuto dei crimini e dei massacri indicibili e non possono essere lasciati unicamente a carico della Confederazione della Siria del Nord e dell'Est, che ovviamente ha anche tutte le difficoltà del caso, anche quelle di cui parlavo prima. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera a te Sara, e grazie mille per questo tuo intervento, che certamente non è stato solo, diciamo, formale, nel senso di raccontare quello che sarà l'iniziativa organizzata per la cerimonia in ricordo di Orso, ma ovviamente intriso non poteva non essere, insomma, anche di riflessioni personali, perché chiaramente il tema è davvero molto profondo ed è proprio quello di ciò che vale la vita e cosa fare, insomma, della propria vita quando si desidera il cambiamento. Quindi, insomma, davvero grazie, perché credo che anche chi l'ha sentito non possa fare a meno, insomma, di apprezzare anche questo aspetto e questo coinvolgimento, questa tensione che si sentiva nelle tue parole e nelle tue riflessioni. Davvero un piacere quando le cose vanno così, e un piacere è anche dare la parola alle compagne, ai compagni, a tutto il collettivo di Non Una di Meno, che in questa settimana lancia un appuntamento e lo lancia da un altro appuntamento, per l'appunto. Come ho detto all'inizio della trasmissione e in introduzione, movimento di Non Una di Meno, una situazione certamente abbastanza viva, abbastanza fresca, ho detto frizzantina, insomma, senza alcuna ironia, ma per descrivere il fatto che è un movimento che in qualche modo riesce a darsi delle scadenze di lotta, e che ci sembra sempre più interessante, sempre più importante la capacità di riportare dei ragionamenti che spesso e volentieri il sistema capitalistico, il neoliberismo, tenta di recuperare annacquandoli, e invece tenta, e credo ci riesca pure in buona parte, di riportare nella concretezza delle nostre vite. E quindi da qui la battaglia per i consultori, la battaglia per l'inclusività, la battaglia per una società accogliente e plurale, che senza altro star ad aggiungere o filosofeggiare, insomma, direi che è proprio il momento di passare la parola a loro, che ci parlano da un presidio tenuto sotto il Consiglio regionale, anche per lanciare l'appuntamento di questo mercoledì 19. A loro e a voi la parola. Ciao, sono Clara del movimento Non Una di Meno Firenze. Siamo qui al presidio in via Cavour per la sesta volta. Stiamo presidiando appunto durante il consiglio regionale. Stiamo portando avanti la campagna Smutandate, decidiamo noi. Vogliamo appunto 195.000 euro consultori, medici non vettori e contraccettivi. Abbiamo deciso di allargare il discorso della salute, renderlo più ampio ed occuparci del diritto alla salute in tutte le sue forme. Per cui vogliamo che i consultori siano pubblici, i presidi di salute vengano potenziati e ampliati, e che siano soprattutto liberi e laici. Vogliamo che il personale assunto nei consultori sia stabile e con diverse competenze. Vorremmo anche l'apertura del consultorio pubblico nel Lungarno Santa Rosa, che in tutti i consultori sia possibile somministrare ambulatorialmente la RU486, e che soprattutto che i consultori siano un luogo accogliente per le donne nel rispetto della loro autodeterminazione. e vogliamo che la contraccezione sia realmente gratuita e garantita, come appunto propagandato dalla delibera Rossi. E per questo stiamo organizzando un'assemblea pubblica e aperta, di cui ci parlerà Livia, davanti al consultorio, dove che vorremmo che ci fosse un consultorio in Santa Rosa. Ci vedremo mercoledì 19 alle 15.30 per tutto il pomeriggio, faremo un'assemblea pubblica, un po' come abbiamo fatto in ospite di Piazza dei Ciompi. Venite numerosi e portiamo avanti la campagna Smutandate, che è una campagna su cui tutti i nodi toscani stanno lavorando insieme. Di non una di meno, e vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine e sui nostri social. Venite numerosi! Sì, veniamo, promesso. E anche se non veniamo personalmente, i nostri microfoni sono comunque stati messi a disposizione del presidio. Lo ripetiamo ancora una volta, mercoledì 19, ovviamente di giugno, perché è domani l'altro rispetto all'uscita della diretta della nostra trasmissione, mercoledì 19 dalle ore 15.30 per tutto il pomeriggio. Siamo a Lungarno di Santa Rosa, di fronte al presidio, al distretto sanitario, quello che giustamente le compagne di Non Una di Meno Firenze vorrebbero che diventasse un consultorio. Insomma, appuntamento anche a questo presidio, come a tutte le altre iniziative, non solo di Non Una di Meno, ma a tutte quelle che abbiamo cercato di dare spazio e abbiamo raccontato in qualche modo approfondendole, e questo crediamo sia il ruolo e la mission del nostro strumento autogestito che si chiama Radio Wombat. E arrivederci e a ritrovarci con tutti e tutte voi nelle lotte di questa settimana e non solo. E con questo chiudiamo la trasmissione di questa settimana. A risentirci la prossima settimana. Un grande ciao!